Radio Management & Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Pensioni e innalzamento dell'età. Banca Italia dice che bisogna difendere il sistema. Niente passi indietro. Nel Sicilia, dopo la sconfitta, il PD pensa a un nuovo candidato. Gentiloni, nome spendibile, sostiene Rosato, fedelissimo di Renzi. Foto su Facebook, armati ed esibizioni di potere. Maxi operazione contro le nuove leve dell''ndrangheta. Un italiano su tre non svolge nemmeno un'attività culturale durante l'anno. Solo il 40% legge almeno un libro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms. Oggi non abbiamo né WhatsApp né la diretta Facebook perché siamo in trasferta, siamo a Rimini, ad Ecomondo, che è la fiera della green economy e dell'economia circolare. Poi torneremo su questi temi, ne parleremo più avanti di quello che si sta raccontando in queste ore all'interno di questa fiera, puntata di Effetto Giorno, che andiamo dunque ad aprire parlando di pensioni e delle audizioni che ci sono in corso sulla manovra e dell'opinione della Banca d'Italia. Niente passi indietro sulle pensioni. Dopo Confindustria, anche Banca Italia si schiera contro la possibilità di bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019. La necessità di mantenere l'equilibrio pensionistico di lungo periodo è una priorità assoluta, avverte il vice direttore generale di Via Nazionale Luigi Federico Signorini. Ciò non vuol dire che non ci possano essere aggiustamenti su singoli casi, ma l'importante è preservare la stabilità complessiva. La sostenibilità delle finanze pubbliche poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte in passato. Aggiustamenti di carattere tecnico per tenere conto di particolari situazioni sono sempre possibili, ma è importante nel complesso del disegno del sistema pensionistico non fare passi indietro. Sulle pensioni interviene anche la Corte dei Conti, sposando di fatto la linea di Banca Italia. Sì a interventi, ma solo per alleviare situazioni di reale disagio. Tutto questo mentre continua il confronto tra governo e sindacati, con una serie di tavoli tecnici che dovranno servire anche a definire la platea dei lavori gravosi che dovrebbero essere esentati dal meccanismo automatico di adeguamento dell'età pensionabile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Sono in corso in queste ore le audizioni nella commissione d'inchiesta sulle banche, dei vertici delle banche venete, ma in realtà l'attenzione in tema bancario si sta concentrando in queste ore sui non performing loans, i cosiddetti non performing loans, ossia le sofferenze, i crediti che le banche non riescono più a riscuotere. Oggi arrivano dichiarazioni anche dalla Banca Centrale Europea, sentiamo. Anche se i livelli di NPL sono scesi in maniera significativa, il problema non è ancora risolto. Per questo serve uno sforzo congiunto tra banche, supervisori, regolatori e autorità nazionali. Così il presidente della BCE, Mario Draghi, torna a parlare dell'incidenza troppo elevata dei crediti deteriorati sul capitale delle banche, che da gennaio dovranno sottostare a regole più stringenti per accelerare lo smaltimento delle sofferenze. Gli istituti stanno quindi inviando i loro piani alla BCE, che valuterà caso per caso, ha chiarito il capo della vigilanza, Daniel Nui. Preoccupata la Federazione Bancaria Europea, che in una lettera indirizzata a Commissione, Europarlamento ed Eurotower parla di aumento dell'incertezza regolamentare. Dato il preannuncio molto breve, sulle nuove regole non c'è stata una valutazione di impatto, in particolare sul credito alle PMI e sulla crescita economica negli Stati membri, scrive l'EBF. Per domani intanto è attesa la risposta dei servizi legali dell'Europarlamento sui limiti dell'attività della BCE, che secondo il presidente dell'Eurocamera, Antonio Tajani, non può svolgere attività normative. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo alla pagina politica che continua a concentrarsi naturalmente sulle elezioni siciliane e sugli effetti a livello nazionale delle elezioni siciliane. Dunque, vediamo se siamo in grado di farvi sentire innanzitutto il servizio di Andrea Viali dedicato esattamente a questo, all'impatto nazionale di queste elezioni. Sentiamo. La sconfitta in Sicilia riapre nel Partito Democratico il confronto sul candidato premier in vista delle politiche di primavera. Per il capogruppo alla Camera Rosato, quello di Gentiloni, è un nome spendibile, anche se il candidato del PD resta Renzi, legittimato dalle primarie. Niente rese dei conti, ammonisce invece Franceschini, che invita ora a lavorare per costruire un'alleanza più ampia possibile. Da MDP ad intervenire l'ex segretario democratico Bersani, il quale giudica solo tatticismo il dibattito sui candidati premier e sottolinea come con il PD ormai ci sia una rottura profonda che richiede un'analisi altrettanto profonda. Dopo la vittoria di Musumeci sorride invece il centrodestra, la sinistra ha fallito, noi siamo l'unica alternativa al Movimento 5 Stelle, dice Berlusconi, forte del successo ottenuto dalla lista di Forza Italia in Sicilia. Prima si vota, meglio è, ripete nel frattempo il leghista Salvini, che chiede a Mattarella di sciogliere le Camere il prima possibile. A cantare vittoria è anche Beppe Grillo, siamo la prima forza politica in tutto il paese e in Sicilia, stavolta niente Malox, scrive sul suo blog il fondatore del Movimento 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E andiamo proprio in Sicilia dalla nostra inviata. Si contano i seggi qui in Sicilia con il 39,9% e il neopresidente Nello Musumeci conquista la maggioranza dell'assemblea di Palazzo d'Orléans. Il centrodestra conta 36 deputati su 70, Forza Italia capofila con 12 parlamentari, 19 al Movimento 5 Stelle, 15 al centro-sinistra, 12 seggi al PD e 1 alla sinistra con Claudio Fava. Il neopresidente sceglierà lui gli uomini di governo, garantisce la maggioranza e promette di tagliare sprechi e vitalizi, ma per il sindaco di Palermo Luca Orlando, Musumeci si deve guardare da due nemici. Il presidente Musumeci deve evitare di essere travolto da questa miscela di clientelismo da una parte e intolleranza razzista dall'altra. Soddisfazione da parte del Movimento 5 Stelle, che si conferma il primo partito dell'isola con il 26,8%, mentre il candidato Giancarlo Cancelleri raggiunge il 34,6%, con Luigi Di Maio che pensa già a Palazzo Chigi. Nel centro-sinistra invece Fabrizio Micari ottiene il 18,6% dei consensi, con un PD fermo al 13%, mentre Claudio Fava a sinistra è al 6,1%. E sulla leadership di Matteo Renzi, Leo Luca Orlando avverte. In una logica di coalizione il candidato premier si sceglie insieme. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E alle elezioni siciliane dedicata l'analisi di Daniele Biacchessi. Ora che i dati delle regionali siciliane sono definitivi, emergono le tendenze nazionali, quelle che trasformano un voto locale in una proiezione su tutto il territorio. Molte sono ancora le incognite perché il sistema elettorale siciliano è cosa diversa da quello nazionale con il cosiddetto Rosatellum. Di certo c'è che i due sistemi premiano la capacità di unità delle coalizioni, al netto del cosiddetto voto disgiunto che in Sicilia ha avuto un grande peso. I dati più evidenti emergono dalla sommatoria dei vari partiti del centrodestra 42.1 di 2,3% sopra ciò che ha totalizzato Nello Musumeci come presidente, cioè 39,80%. Non si è verificato un enorme travaso di voti. Gli elettori del centrodestra hanno dunque votato in modo abbastanza compatto il suo candidato. Giancarlo Cancelleri con il suo 34,70% è andato ben oltre il risultato del suo unico partito di riferimento, il 5 Stelle, pur diventando il primo partito in Sicilia, ha preso il 26,70%, 8% in meno del suo candidato presidente. Il vero problema resta al centro-sinistra e qui sta il punto. I partiti del centro-sinistra, tra cui il PD, ottengono insieme un magro 24,40% e il loro candidato Fabrizio Micari il 18,70%, cioè 6,7% rispetto al dato negativo della coalizione. A sinistra Claudio Fava tira di più della sua lista, 6,10% contro 5,20%. Su scala nazionale le tendenze che emergono sono certe. Il centrodestra ha diviso negli intenti ma unito nei progetti alle elezioni di primavera, parte con uno scatto in più rispetto agli altri. Il centrosinistra nella formula PD più Alfano non funziona, così come non funziona sotto il profilo numerico l'idea PD più MDP e Sinistra Italiana. Il 5 Stelle che corre isolato potrà mirare a diventare il primo partito nel paese, ma non ha margine di manovra se non si unisce. Passiamo alla cronaca. Per parlare di caporalato, le 25 indagini avviate dai carabinieri durante la campagna estate sicura hanno permesso di arrestare 13 persone responsabili di aver sfruttato complessivamente 203 lavoratori. Il maresciallo dei carabinieri Cosimo D'Amore, intervistato da Valentina Furlanetto. Inutile nascondere, il fenomeno del caporalato è un problema soprattutto culturale. Complessivamente sono state controllate 14.746 aziende, sospese 1.879 attività di impresa e denunciate, quindi nel complesso, non solo per fenomeni di intermediazione illecita, 5.287 persone, questo a livello nazionale. 12 milioni di euro invece sono state le evasioni o omissioni contributive accertate e 20 milioni di euro le sanzioni amministrative contestate. Il dato fondamentale è l'indice di irregolarità, perché è stato riscontrato il 68% di irregolarità sia per gli aspetti di natura ordinaria e amministrativa sia per quelli legati alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. E restiamo sulla cronaca per spostarci in Calabria. Una grande operazione contro la 'ndrangheta questa mattina ha permesso di svelare un mondo, quello delle nuove leve della 'ndrangheta che si gloriavano anche sui social network delle loro imprese. Assolutamente arroganti, postavano sui social network le foto in cui mostravano se stessi e le temibili armi di cui erano in possesso. Sono i Cumps, i Cumpari, le nuove leve dell'andrangheta dello Ionio Regino, figli dei boss che controllavano il territorio spavaldamente e lo dividevano con il Banco Nuovo, una nuova cosca che aveva già preso il sopravvento nella zona della Locride, compresa tra Africo, Brancaleone e Bruzzano Zeffirio, controllando gli appalti pubblici e minacciando amministratori e imprenditori. Carabinieri e polizia, coordinati dalla DDA Regina, ne hanno arrestati una quarantina, un'altra decina è destinataria di diverse misure cautelari. Le accuse sono di associazione mafiosa, estorsione, illecita concorrenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrate molte armi, pronte ad essere utilizzate, forse anche fuori dalla Calabria. Perquisizioni e sequestri sono stati infatti eseguiti anche in Lombardia e Liguria. Francesco Stratini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. All'estero con la visita in Corea di Donald Trump. A Tokyo è stato tutto piuttosto facile per Donald Trump, che ha definito più forte che mai l'alleanza con un Giappone che ha mostrato di approvare in anticipo qualunque cosa lui deciderà di fare. Ma in Corea del Sud, dove l'Air Force One è atterrato poche ore fa alla base di Osan, la musica è diversa. Già nel weekend 220 organizzazioni della società civile sudcoreana hanno organizzato proteste contro di lui e stasera è prevista una grande veglia a lume di candela nel centro di Seul contro i venti di guerra alzati dai discorsi aggressivi del presidente americano. E se il premier giapponese Abe ha detto di essere al 100% sulla linea di Trump, secondo cui con la Corea del Nord c'è sul tavolo anche l'opzione di un attacco militare, il presidente sudcoreano Moon Jae-in la pensa diversamente. Vorrebbe assicurazioni che nessun attacco americano avvenga senza il suo consenso preventivo. Tanto più che in caso di conflitto molti centri studi prevedono un numero spaventoso di vittime civili da entrambi i lati del confine. Inoltre, Trump ha già preteso di rinegoziare l'accordo di libero scambio bilaterale detto Corus, definendolo orribile. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Seul. E come già vi abbiamo detto in apertura, ma probabilmente lo percepirete anche dall'audio che è lievemente diverso, c'è un po' di brusio di sottofondo, siamo ad Ecomondo, alla fiera di Rimini, una fiera importante dedicata, come si diceva, all'economia circolare, alla green economy, e abbiamo nei nostri studi, dai quali trasmettiamo, Adriano Palazzolo, che ha seguito i lavori di apertura di questa mattina. Adriano, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno anche agli ascoltatori. Io partirei da un dato, ovvero quello che le protagoniste di questa fiera, l'economia green e l'economia circolare, generano un giro d'affari che si avvicina ai 200 miliardi di euro e che in Italia coinvolge 385.000 imprese. Si stima inoltre che entro il 2030 questo settore porterà alla nascita di almeno 190.000 posti di lavoro ed è dunque un tema caro per quel che riguarda sia la crescita economica che l'occupazione. Qui a Rimini dunque si parlerà fino al 10 novembre di eolico, fotovoltaico, biotecnologie, efficienza energetica, ma anche di raccolta differenziata, riciclo e tanto altro. La giornata oggi si è aperta con gli stati generali della Green Economy, con la proposta per tutte le forze politiche di puntare in maniera più convinta nei propri programmi in vista delle prossime elezioni proprio su questo tema, un punto su cui è intervenuto anche il ministro della Salute Gianluca Galletti, che è venuto qui a Rimini ad inaugurare la manifestazione. Spero proprio, davvero, che nella prossima campagna elettorale i partiti mettano nel proprio programma e con grande evidenza le politiche ambientali economiche, però attenzione, anche le ricette per poter riparare i danni ambientali che noi abbiamo ancora in questo paese. Mi riferisco al dissesto idrogeologico, sul quale questo governo ha lavorato molto, ma c'è ancora molta strada da fare. Mi riferisco alle bonifiche, mi riferisco alle depurazioni. Su tutte queste cose molto è stato fatto, molte risorse sono state impiegate, molti lavori sono in corso, ma ripeto, c'è ancora tanta strada da fare. Questo deve essere un tema di campagna elettorale. Lo so, non è facile perché richiede una maturità molto forte, ma credo che chi lo farà ne trarrà dei benefici anche in termini di voti. Così dunque Gianluca Galletti, grazie ad Adriano Palazzolo per questo aggiornamento. Poi qua da Ecomondo continueremo a trasmettere anche nei prossimi giorni e anche altre trasmissioni. A chiudere questa prima parte andiamo a parlare di cultura, perché ci sono dei dati che sono stati diffusi oggi nel rapporto Federculture che sono oggettivamente piuttosto preoccupanti. Gli italiani tornano a spendere in cultura, 68,4 miliardi nel 2016, recuperando circa 4 miliardi dopo il crollo dei consumi del 2013. Lo rivela il 13° rapporto annuale di Federculture su impresa, cultura, gestione, innovazione e sostenibilità presentato a Roma. La spesa per i servizi culturali e ricreativi nel 2016 è pari a 29 miliardi di euro. Nello specifico, gli italiani stanno tornando a teatro, più 2%, al cinema, più 5%, e visitano più mostre e musei, più 4%, e siti archeologici, più 5,4%. Il Trentino Alto Adige è la regione che mostra la maggior propensione ai consumi culturali, con una media di 209 euro a famiglia, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna. Ma la brutta notizia è che nel nostro paese per più di una famiglia su tre si può parlare di vera e propria esclusione culturale. Gli italiani che in un anno non svolgono alcuna attività di tipo culturale sono infatti il 37,4%, una percentuale che nelle famiglie a basso reddito raggiunge e supera addirittura il 50%. Cattive notizie anche per quanto riguarda la lettura. Solo il 40,5% degli italiani legge almeno un libro l'anno e appena l'8,3% lo fa con un ebook. Vola però il turismo in Italia. In particolare va molto bene il turismo culturale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro per quanto riguarda le notizie principali. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro d'Italia. E inizieremo da un luogo dove andammo già un paio d'anni fa, o meglio, ci andiamo spesso, ma per questo motivo ci andammo un paio di anni fa, ossia Sanremo. Lo ricorderete, l'inchiesta simbolo contro l'assenteismo nella pubblica amministrazione. La foto la ricorderete, quella del vigile che timbra il cartellino mentre in mutande dicendo io abito proprio là sopra. A due anni di distanza cosa succede? Succede che, impastoiato burocraticamente, il comune non riesce a sostituire questi lavoratori che sono stati arrestati e licenziati e non riesce a funzionare come deve. E poi parleremo di una multa molto strana. Lo sapete, c'è una regola, una norma, che prevede che non possiate tenere abbassato il finestrino se parcheggiate la macchina in un posto pubblico, perché c'è il rischio che ve la rubino. Un cittadino italiano ha preso una multa da 57 euro esattamente per questo motivo. E vedremo di approfondire questa e altre norme un po' assurde che poi cadono nel dimenticatoio e riemergono quando, per un caso eccezionale, i vigili decidono di essere particolarmente solerti. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre in diretta da Ecomondo, la fiera della green economy e dell'economia circolare che si apre oggi a Rimini. Sempre 349-238-6666 per i vostri sms. Ormai lo sapete, quando siamo in trasferta è un po' più difficile avere i messaggi su WhatsApp e anche la diretta Facebook. Quindi i vecchi cari sms se ci volete scrivere. Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, che è la prima tappa del nostro Giro d'Italia. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a lei, radioascoltatori. E anzi, bentornato ai nostri microfoni. Stiamo parlando, come già si diceva prima, di quella che è stata un po' l'inchiesta simbolo contro i cosiddetti furbetti del cartellino. che qualche ascoltatore ci riprende ogni tanto, anche giustamente, ci dice: piantate di chiamarli furbetti, sono dei truffatori, perché di fatto stanno come dire, sfruttando la loro posizione da dipendenti pubblici per spendere soldi nostri. Due anni sono passati, oggi il Secolo XIX dedica un articolo interessante al fatto che voi, dopo aver licenziato una parte di queste persone, nel momento nel quale i processi nei confronti di una parte di queste persone sono aperti, vi ritrovate, pur essendo un comune virtuoso a questo punto, un comune che si è occupato della produttività dei suoi lavoratori, vi ritrovate in forte difficoltà, perché le pastoie burocratiche vi impediscono di sostituire questi lavoratori. Ho capito bene, Biancheri? Sì, diciamo che noi abbiamo licenziato 32 persone, poi sono state sospese circa 80, chi un mese, chi una settimana, chi sei mesi. Dunque, ovviamente in questi due anni il comune sono venuto a mancare anche, vuol dire, le risorse, quelle che portano avanti comunque il lavoro e gli indirizzi dell'amministrazione. Questo per vari motivi, che non so, penseremo per tutti i comuni, che comunque ci siamo trovati nel mezzo di un blocco delle assunzioni a causa delle province, perché si sono dovute ridimensionare le province, dunque sino finché questa questione non è stata poi riaperta, fino al 2016 non potevamo assolutamente fare nessun bando. Poi abbiamo dovuto scrivere alla funzione pubblica, poi vedere le mobilità di tutti gli enti, poi le graduatorie, e adesso finalmente possiamo organizzare i bandi, che ci vorranno altri sei mesi. Dunque noi in due anni siamo riusciti ad assumere 8 persone e mi auguro su quante 32 sono 32 le persone che vengono a mancare al momento licenziati. Da organico. Sì, diciamo che poi non è che ne servano 32, ma perlomeno 20 professionalità in più ci vogliono assolutamente. Ecco, Perché per sostituire quelli, dice lei, non è che serve lo stesso numero di persone, perché magari che assumete lavorano un po' di più. No, ma c'è da dire che un ente, comunque, al di là di tutto, oggi perlomeno c'è bisogno di professionalità, anche perché sono quelle che poi portano avanti gli indirizzi, portano avanti i progetti. È venuto a mancare sino a un mese fa il responsabile della CUC, della centrale unica appaltante, che si occupa di fare gli appalti per il comune, cioè sono ruoli strategici e siamo rimasti scoperti. Abbiamo avuto un'anagrafe con un orario ridimensionato sino a pochi mesi fa. Dunque non è semplice, vuol dire, la situazione, che ovviamente la burocrazia, tutto quello che ovviamente la trasparenza, non è un'azienda privata. Sindaco, ma secondo lei andrebbero premiati i comuni come il suo, cioè quelli che vanno dalla polizia, dai carabinieri e gli dicono: guardate, questi miei dipendenti mi stanno truffando sostanzialmente? Cioè, ci vorrebbe un meccanismo premiale, secondo lei, Biancheri? Ma io giro. No, perché mi scusi Biancheri, perché sennò il rischio è dall'altra parte, che sentendo anche la sua storia, gli amministratori locali dicano: beh, ma senti un po', ma chi me lo fa fare di denunciare la gente che lavora poco, se poi mi ritrovo con un organico così ridotto? No, io credo che al di là di questa vicenda di Sanremo, che poi per vari motivi siamo stati, voglio dire, in tutta Europa siamo stati i media, tutte le cose, dobbiamo anche comunque pensare una cosa, che col senno del poi ovviamente ci sono state storie, secondo me, che poi sono state anche penalizzate, cioè di dipendenti che comunque sono stati, vuol dire, trovati che giustamente non rispettavano il loro orario e tutto quello che comparte. Dall'altro canto io credo che noi da questa storia dobbiamo però fare un altro ragionamento e dire: come possiamo incentivare di più noi dipendenti pubblici? Cioè, perché oggi voglio dire, in un'azienda comunque il dipendente pubblico è incentivato con i premi produttivi, con gli obiettivi delle cose. Io credo far lavorare meglio quelli che ci sono, cioè spingerli a lavorare e a non fare. Esattamente, perché poi secondo me ci sono. Non mettere in campo meccanismi. In campo. Io di questa cosa voglio dire, non abbiamo cercato noi di gestirla, e che poi il sindaco in questo caso qua non è che abbiamo un ruolo così determinato, è soprattutto il segretario generale o responsabile al personale che ovviamente ha gestito tutta questa questione. Noi quello che abbiamo fatto, noi non ci siamo messi, cioè non abbiamo messo, non ci siamo messi tra, voglio dire, le scelte gestionali, quelle giuridiche dei nostri dirigenti, abbiamo fatto che facciano il percorso naturale, e il segretario generale ha scelto una politica che è stata questa di licenziare e di sospendere. Che all'epoca, voglio dire, non c'era neanche le nuove norme, cioè noi stiamo ancora, abbiamo fatto, mi pare che era la legge Brunetta ancora. Sì. Dunque abbiamo adottato tutto quello che era da fare, l'abbiamo fatto in tempi velocissimi. Sì. E devo dire che il segretario ha fatto quello che riteneva giusto. Non è che no, Biancheri, io devo chiudere, però mi sembra, il discorso mi sembra chiaro. Cioè, quello che dice lei è semplicemente stimolare il, come dire, più che denunciare, cioè trovare il modo di stimolare i dipendenti pubblici a lavorare di più, lavorare meglio, essere più produttivi. Grazie Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, per essere stato con noi. E adesso il nostro Giro d'Italia ci porta a due passi da Udine, a Tavagnacco. Per parlare di cosa? Per parlare di una multa. Io non so se lo sapevate o non lo sapevate, ma insomma, magari vi sarà capitato qualche volta di scendere dalla macchina e di lasciare il finestrino aperto o semiaperto per tanti motivi, perché siete stati in una macchina a lungo, c'è un cattivo odore, avete il cane, c'è puzza di cane dentro, tutto quello che vi pare, i bambini, il bambino ha vomitato in macchina, un super classico, il bambino ha vomitato in macchina e lasciate aperto il finestrino. Ebbene, per una cosa di questo genere è prevista una sanzione, cioè non potete lasciare il finestrino aperto se vi allontanate dalla macchina, e lo apprendiamo da questa storia che arriva da Tavagnacco, provincia di Udine, dove un uomo si è visto recapitare una multa da 57 euro proprio per il finestrino abbassato. Noi non lo sapevamo, ma Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che di queste cose si occupa costantemente, invece sapeva che esiste questa norma. Maurizio, eccoci, buongiorno. Buongiorno, beh, diciamo che in teoria dovremmo saperlo tutti, perché è una cosa che esiste da sempre nel codice della strada e qualche scuola guida dovrebbe anche continuare a insegnarla. Il codice della strada si preoccupa del fatto che noi quando lasciamo il nostro veicolo su strada adottiamo, come dice il codice della strada, tutte le cautele necessarie ad evitare incidenti o l'uso del veicolo senza il nostro consenso. Quindi tu hai citato, Simone, i bambini. Il caso classico è proprio quello di un ragazzino, di un bambino che vedendo il veicolo incustodito e sapendo di poterci entrare dentro poi lo prende, sì, all'insaputa dei genitori. E succede, sì, poi deve fare quel lavoro con i contatti sotto, che forse un bambino non sa fare, però insomma, per accendere il veicolo perché non ha la chiave, però insomma, magari è una possibilità, diciamo, potrebbe averci la chiave, perché potrebbe in casa procurarsi anche la doppia chiave, insomma, sì. Sono tanti. Il codice della strada in ogni caso, sì, si para, diciamo, da tutte queste possibilità. Quindi c'è una razio dietro questa multa, c'è una razio, una razio c'è. Poi c'è anche, io dico, anche una questione di sicurezza che il codice della strada probabilmente non considera, ossia molto spesso i finestrini vengono lasciati semi aperti quando fa molto caldo, questo onestamente serve abbastanza poco a temperare il caldo, contemporaneamente vi possono entrare degli insetti in auto che poi quando siete in marcia, diciamo, vi si risvegliano all'improvviso, vi fanno spaventare, vi fanno anche fare incidenti. E può essere rischio. Ma no, non è l'unica norma così scarsamente applica, perché di applicazione di questa norma ne abbiamo viste pochissime oggettivamente, no, Maurizio, un po' perché noi tutti tendenzialmente lo chiudiamo il finestrino, no? Ma in realtà deve essere successo qualcosa, nel caso specifico deve essere successo qualcosa tale per cui gli agenti non potevano non vedere che era stata commessa questa irregolarità. Spesso succede in occasione di incidenti, quando succede qualcosa, insomma, perché poi in realtà Però ci sono altre norme, ci sono altre norme simili, no? Cioè simili nel senso in termini di scarsa applicazione della sanzione. Scarsamente applicabile. Penso ai 218 euro di multa che da 10 anni sono previsti per chi rimane col motore acceso, con l'auto ferma e il motore acceso al solo fine di far funzionare il condizionatore d'aria. È una norma scritta malissimo, tra l'altro la sosta con motore acceso è già punita a parte con 41 euro. Dice al solo fine di far funzionare il condizionatore d'aria, quindi anche questo andrebbe dimostrato da un agente, quindi è difficilissimamente applicabile. Tra l'altro, adesso che fa freddo, è arrivato l'inverno, dovrebbe essercene una simmetrica se facciamo andare invece il riscaldatore. Il motore per far andare il riscaldamento, certamente. Allora, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Qualcuno ci chiede, buongiorno, e le decappottabili? Le decappottabili, chiudi la capota e chiudi anche i finestrini, molto semplicemente. Questo teoricamente di direbbe la norma, poi sapete com'è in Italia, insomma, si va anche al vigile che becchi, alla situazione nella quale ti trovi, al luogo nel quale ti trovi e via dicendo. Di norme ne abbiamo tante, non tutte, come sapete, sono applicate, pienamente applicate. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi dovremo riuscire a collegarci, e vediamo se ce la facciamo, con il sindaco di Camerino, che ieri ha incontrato il presidente del Consiglio Gentiloni insieme agli altri sindaci delle zone terremotate e continuano a lamentare un problema profondo che ha a che fare tanto con l'avvio dei lavori, banalmente, di eliminazione delle macerie, poi la ricostruzione, ma quello è un po' più a lungo termine, perché prima di tutto bisogna mettere in sicurezza, e dall'altra parte questo fatto che già il sindaco di Visto ci diceva la settimana scorsa: ma è possibile avere un cratere con dentro 140 comuni dove c'è gente che ha avuto una crepa nella casa e gente che ha avuto la casa letteralmente abbattuta dal sisma, e tutti con le stesse regole? Probabilmente non è possibile, ne parleremo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: Sicilia dopo la sconfitta, il PD pensa a un nuovo candidato. Gentiloni, nome spendibile, dice Rosato, fedelissimo di Renzi. Poco fa ha parlato il segretario del PD, ex presidente del Consiglio, dice: vogliono farmi fuori un'altra volta, non ci riusciranno. Pensioni, innalzamento dell'età, Banca Italia dice bisogna difendere il sistema, niente passi indietro. Foto su Facebook, armati ed esibizioni di potere, maxi operazione contro le nuove leve dell''ndrangheta. Un italiano su tre non svolge nemmeno un'attività culturale durante l'anno, solo il 40% legge almeno un libro. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, la prossima tappa del nostro Giro d'Italia è dunque nelle Marche e più in generale, per parlare più in generale in realtà delle zone colpite dal terremoto, perché ieri c'è stato un incontro col Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, lo stesso Gentiloni ha detto dobbiamo accelerare, però ci è sembrato di percepire da parte dei sindaci delle zone colpite dal sisma un certo scetticismo complessivo, soprattutto per come sono andate le cose finora. Siamo in linea con Gianluca Pasqui, che è sindaco di Camerino ed è anche quello delegato, l'uomo delegato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, proprio alle questioni che riguardano il sisma. Pasqui, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Grazie. Buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. E anche lei, bentornato ai nostri microfoni. Mi sembra di aver capito che ci siano due problemi di fronte: da una parte quello burocratico, che abbiamo spesso raccontato da questi microfoni, cioè una serie di ordinanze che si sono accavallate, spesso una che correggeva l'altra, con grandi difficoltà anche agli uffici comunali a capire che cosa effettivamente si dovesse fare, e dall'altra parte questa ampiezza enorme della zona del cosiddetto cratere, che comprende 140 comuni, di cui, come si diceva prima, alcuni nei quali c'è qualche danno, ma insomma estremamente limitato, altri letteralmente rasi al suolo. Ho riassunto bene, Pasqui? Beh, guardi, intanto di certo i livelli di danno vanno e si devono rivedere. Non può essere che ci sia un cratere unico a prescindere da quello che è accaduto. Noi riteniamo che questo argomento debba essere valutato con grande serietà, come con grande serietà si sta valutando tutta questa grande disgrazia. E dobbiamo proprio andare all'interno delle comunità per capire quello che è accaduto. Non si può continuare a tenere un unico metro per tutto quello che è successo, perché è successo in maniera diversa. Quindi questo è un tema che deve essere approfondito e che cercherò di approfondire nell'incontro che il presidente Gentiloni, con grande cortesia, ieri ha garantito di concederci. E poi è chiaro la burocrazia, io addirittura parlerei di sistema, un sistema, quello della nostra nazione, che nonostante gli sforzi di tutti si sta dimostrando lacunoso nell'emergenza e nella gestione dell'emergenza. Quando sento parlare di ricostruzione sento parlare di un qualcosa che non è presente, cioè non si parla del presente, ma si parla di un qualcosa che deve ancora avvenire. Siamo nella fase dei puntellamenti, cioè delle messe in sicurezza. siamo nella fase del dover riportare i nostri cittadini all'interno delle loro mura cittadine. Siamo sì. nella fase di dover dare le SAE, e quindi le famose case di legno, a coloro di cui ne necessita poi l'utilizzo. Sì, ecco, 200 quelle consegnate in tutta la regione sulle 1800 e passa richieste al momento, sì, le casette. Sulle 1800, sì. Ma questo è proprio da quello che lei dice, c'è la prova provata che quel sistema di cui le parlavo probabilmente va rivisto nelle cose che non funzionano. È inutile parlare delle cose che sono andate bene, non sì. credo sia utile. Penso no, certo, sia utile. Pasqui, guardando ad un modello, quantomeno per l'identificazione dei comuni più colpiti, le sembra che il modello del 97 possa essere quello giusto? Immagino che lei ci fosse, se non come amministratore, quantomeno come cittadino, insomma. Io personalmente c'ero, perché sono di Bevagna, la provincia di Perugia, e quindi ricordo una gestione da questo punto di vista buona complessivamente, con le sue difficoltà, come è normale in una situazione di emergenza, e però dall'altra parte questa suddivisione delle fasce, no? di comuni più colpiti mi è sembrata molto utile. Sì, sicuramente molto utile. Il modello 97 è un modello che probabilmente non si potrà in toto applicare a questo evento sismico, perché è stato di altro livello, di altra catastrofe, per carità. Però quello è stato un momento, il 97, dove c'erano le regioni, quindi ovviamente c'era uno Stato che delegava la regione, e poi c'erano i poteri dati ai sindaci. Oggi, permettetemelo, i sindaci, io non ho capito ancora che poteri hanno. Ritengo che la figura dell'ente locale, del rappresentante dell'ente locale, debba essere utilizzata in maniera un pochino diversa. E allora la ringrazio, forse... Pasqui, devo veramente chiudere. La ringrazio, mi sembra che il suo pensiero l'abbia espresso, e poi avremo modo di tornarci su questi temi, non si preoccupi. Grazie a Gianluca Pasqui, sindaco di Camerino, Traffico Platero. Ci sentiamo alla fine per i saluti.